canale 10. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno? Chi è avanti? Avanti? Non ti sento. Io. Sì. Ma che è questa voce così, Eugenio? Sto facendo male. Sto facendo male, buonasera. Adesso sì, ma poc'anzi no. Adesso già sei uscito bene. Vedi che c'è lì. Se non capisco quello che dici. Vuol dire che se ti sto dicendo che non sta uscendo bene, io non so cosa è. E beh, oggi, Eugenio, cosa è successo? Cos'è che ti sta succedendo? Sono influenzato. Ah, ho capito, sei andato influenzato. Allora, riguardati, curati, fatti curare dal medico, perché se no fa cosa? Non va bene. Se ti fai curare, in uno o due giorni sei a posto. Sono sotto antibiotico. Sotto antibiotico, non voglio, quanto sto male. Ti posso capire, certamente sì. Se uno è influenzato, è chiaro, non è bello, insomma, ecco. Bisogna curarsi e riguardarsi soprattutto. Non prendere freddo, eccetera. Non c'è nessuno ancora. Attenzione, cane 10. Supedimi. Non si è sentito nessuno. Io ho acceso prima delle 5 e saranno state le 5 meno un quarto, non lo so di preciso, ma ho fatto un paio di chiamate, ma nessuno ha risposto. Quindi saranno chi sta dietro al volo, chi sta facendo la doccia. Staranno accendendo sicuramente. Ma non ho sentito già nello più. Diciamo che ogni tanto già si fa sentire, ma comunque è molto assente. In questo periodo è molto assente dalla frequenza, per cui diciamo che raramente lo stiamo sentendo, dai, però fin da ogni tanto già si fa sentire, ma due parole poi chiude. Ma hai la febbre anche, Eugenio? La febbre hai? Magari avrei la febbre. Io la febbre la preferisco al raffreddore, perché il raffreddore mi butta giù, mi prende la testa, è un casino. Preferisco raffreddore. Ho capito. Ma il dottore cosa ti ha detto? Non l'hai chiamato il dottore? Sì, sono stamattina, sono andato. Stamattina ci sono andato, mi ha dato l'antibiotico. Ah, ho capito. Vabbè, allora bisogna prendere quello che ti ha prescritto, così almeno sicuramente ti attenua subito in un paio di giorni. Se per il raffreddore, non so, purtroppo può succedere in questo periodo, probabilmente hai preso freddo, pensando al tuo tipo di lavoro lì, è chiaro che sicuramente hai preso freddo, è per quello. Purtroppo siamo all'umidità, è quello ci frega. Purtroppo è così. Cos'è che succede? Raffreddore non è bello, però diciamo che non è così da spaventarsi, no, non è un problema. Raffreddore si sa come paio di giorni, prende roba calda e vedrai che in breve tempo te lo fai sparire il raffreddore. Vabbè, mi approfitto per rilassarmi un po' a casa. Sono malattia. Ne approfitto per rilassarmi e per recuperare un po' di sonno. Anche quello già è importante, perché considerando le ore di lavoro che fai, per cui non è semplice, dai, non è semplice. Vabbè. purtroppo quello è il tuo lavoro, cosa vuoi che ti dica? D'altronde chi lavora è soggetto anche a queste cose qua, purtroppo è così. Meno male che c'è, se no è un problema. Che c'è un sacco di gente disoccupata a questo torre, se è veramente un problema. Anzi, il mio posto di lavoro a Portone è molto ambito da un sacco di gente. Tutti vogliono entrare da noi perché effettivamente stiamo bene, noi stiamo male. Però poi ci facciamo anche a parlare. Attenzione, Chihuahua, stazione Chihuahua, ci sei? Lo so, oggi purtroppo il lavoro si sa. Soprattutto come stai dicendo tu, quel tipo di lavoro tuo è ambito da tante persone, magari soprattutto lì a Porto Torre. Però il discorso è sempre quello. Il lavoro purtroppo è pesante, ma bisogna farlo, e giustamente è così, ci mancherebbe altro, caspita. Certo non è come stare seduto a tavolino, come fanno tante persone che poi mai si lamentano che sono stanchi, che hanno questo, che hanno quell'altro, senza considerare che chi veramente soffre sono chi lavora in un altro modo, non stando seduto lì a tavolino, magari in inverno con il riscaldamento acceso e in estate col condizionatore acceso. Purtroppo è così, tiriamo avanti, noi siamo abituati a queste cose, a questo genere di vita. Il mio lavoro da uomini, da veri uomini. E avanti. Mario Porto Torres, buonasera. Eugenio qua da Porto Torres, stazione fissa. Buonasera, ben sentito. In compagnia dell'amico Giulio, dagli punti. Ciao Mario, ti sento bassissimo, come mai? Cosa è successo? A differenza delle altre volte che ti ho sentito a meraviglia, veramente. Oggi ti sento molto basso del radio, eh. Mario, faccio veramente fatica ad ascoltarti, Faccio veramente fatica, guarda, bassissimo, proprio ho dovuto anche aumentare il volume della radio per cercare di capire quello che stavi dicendo, ma non ce l'ho fatta, troppo basso il radio, Mario, mi dispiace. Ciao Mario, io ti ascolto forte, chiaro, anche un bel segnale, ora non so tu dove sia, però c'è anche un bel segnale, quindi da parte non ci sono problemi. Vabbè, sei in macchina, quindi Giulio è in macchina, quindi no, magari cambia qualcosa da casa alla macchina. Ah, ecco, allora per quello, il motivo è quello, lo sento bassissimo e quando riesco a capire anche quello che dici, perché non è sempre in tutte le parole che riesco a capire, allora è spiegato, se è in macchina è un altro discorso. E vabbè, non so cosa dire allora, a quel punto non so cosa dire Mario, io ripeto, mi piace parlare con te e con tutti gli amici, ma purtroppo alle volte non capisco proprio quello che dici, proprio per effetto che la tua radio per me è molto ma molto bassa, è scadentissima. Eugenio, non lo sento per niente, Eugenio, io non ho sentito per niente, fai la ponte. Eugenio. Giulio, sta dicendo che sta modulando dalla macchina con l'antennino a base calamizzata con l'antennino, dai, capito? E per quello magari hai la difficoltà a ascoltarlo, però adesso sta andando abbastanza lontano, magari riesci a recuperarlo meglio. Io spero di sentirlo meglio, sì, se si sta spostando, magari andando in un'altra zona dove riesce ad arrivare meglio, va bene, proprio perché in quest'ultimo passaggio proprio niente di niente, anche perché di Santiago mi arriva più basso del QRM, ti puoi immaginare, per cui la ragione per cui non riesco ad ascoltare è proprio quello, che arriva a livello del QRM è anche più basso addirittura, tutto spiegato Eugenio? Mario, ma tu a Giulio lo ascolti? Fai qua il segnale bello forte? Non cazzo, magari è una zona, no, per gli punti, per il momento. Si è arrivato a fare lontano, Mario, vai in piretta a correre, è una macchina nera, perché in giro del portatore sono visto una macchina con la base calamizzata, un SUV nero. Niente, no, Giulio non ti ascolta, per niente. Giulio, niente, vero, niente da balai. No, sento il bisbiglio, però non capisco quello che dice. Mi dispiace, perché avrei voluto ascoltarlo bene, ma purtroppo non arriva, più basso del QRM il suo segnale. Vabbè, l'antenna magnetica non è che è una grande resa, quello lo sappiamo, magari anche un'antenna di quelle corte, tra l'altro, sicuramente così, perché se no da Porto Torres, io mi ricordo ai tempi di Gianni Doppio Zunca, lavorava a Porto Torres, che lo sentivo dall'inizio fino alla fine, quando usciva da lavoro, oppure che doveva entrare a lavoro, lo accompagnavo da casa sua sino a Porto Torres con un segnale molto buono e con una radio bellissima. Invece a Mario non riesco proprio ad ascoltarlo, e purtroppo è così, non sarà aggiornata, non lo so, vabbè. Mario, dai, adesso mi assento un attimo, magari ci sentiamo tra 10 minuti più o meno, Mario. Oggi mi devo sentare un attimino, dai, che hanno suonato il campanello, mi hanno chiamato per scendere giù al piano di sotto. Ok, riprendi oggi, ritenete vi salutate entrambe, dai. Evidentemente se non ritorno, ma penso di ritornare 10 minuti, un quarto d'ora. Avanti oggi, a dopo. Ciao, a dopo, giù, dai. Intanto mi approfitto per scambiare quattro chiacchiere con Mario. Ah, quindi a casa non hai niente, ma non è neanche è una cosa temporanea o definitiva, la decisione. Non è che ti attacca male, ma non l'antenna, magari il PL dell'antenna, no? Sì, ho capito, lo so come funziona. Abiti in condominio, non per farmi fatti tu, ma sei in condominio. Quindi tutti i problemi a seguito del condominio, di chiedere autorizzazioni, smonta tutto, è meglio. Nel 1974. Ho capito che solo nel 74. Allora hai le attacche. Ho capito, quindi avrai avuto problemi di disturbi televisori, quello, quell'altro, vabbè, non ho capito. Ma guarda, molta gente quando viene a casa e vede l'attrezzatura che ho, mi dice, e questa cosa cos'è? Molti non lo conoscono neanche l'apparato, cosa sia, non solo per la venuta dei computer, di questo cavolo di telefoni, siamo diventati schiavi, ma proprio c'è un'ignoranza verso il discorso radio, capito? Io sono leggermente fuori. Guarda, tu conosci bene Porto Torres, sì? Ok, allora, i semafori nuovi, i campi da padel nuovi, ce l'hai presente? Su A131, no? I semafori più in su, quelli che trovi che diciamo li hanno piantato da poco, insomma, quelli nuovi, quelli più in su. Che trovi, lascia stare dove c'è il venditore di piazzelle, vai più su, sai dove c'è il sassai, ne trovi un altro, semaforo, diciamo, e lì, sono lì, no, non è ottava, è Porto Torres, hai capito quale, sì, esattamente, ecco qua, vabbè, ma se lì con i leoni non lo sa dove, sì, ho una casa a conto mio, col terreno attorno, quindi posso fare quello che voglio, nessuno mi dice niente. No, da atrás non si vede l'antenna, assolutamente. No, sono CB. No, ci sono CB. Non mi piacciono i radioamatori. Ma c'è un altro che vuole entrare, avanti, chi vuole entrare sta fischiando. E mentre stavi parlando ci stava sovrammodulando. Avanti, niente, non ero voglia, dai. Vabbè, prendetevela nell'occhio. Tu mi stai dicendo sei via Sassa, giusto? Ma voi su mi hai detto che hai vissuto a Bologna, si usava parecchio l'ICB. Dai, Chihuahua. Sì, sì, ho capito. Avanti. Chi è che... Stasera Chihuahua, siamo in due. Io e... e Claudio. Ma chi è che vuoi dei due? Non lo so, con chi stai parlando, Chihuahua? Tu sì. Poi, lo senti a Mario da Porto adesso? Io lo sento, sempre in ottima forma la mia ricezione. Ciao Mario, buonasera, ben ascoltato. E anche se in macchina arrivi qua. Arrivi benissimo, Santiago 5, Radio 5, non problem. Dipende da dove sei, io non sono a Sassari, Io sono 4 km fuori da Sassari, però sono abbastanza alto, diciamolo. Vabbè, ma lui è comunque in una zona alta. Perché a dei punti non arrivava qua. Proprio zero. Ma i punti non arrivava. E come fa la parola a non arrivare ai punti? Vabbè. Io sono a Sassari, però praticamente dove ero prima, te l'ho detto oggi, ancora salendo più su, Serra Secca Alta, praticamente zona Monte Bianchino, quelle zone di qui. Arriva benissimo, addirittura anche più di 5 arrivi, e stavo guardando bene con gli occhiali perché non vorrebbe bene lo smitter. Più di 5 arrivi, la radio è buonissima, alla grande. Che posizione ti trovi di Porto Torres? Che stai parlando con un Porto Torres doc. Purtroppo mi è capitata la disgrazia di trasferirmi a Sassari per lavoro, ormai sono più andato, però è così, Porto Torres è sempre nel cuore. Che zona sei di Porto Torres? Sta arrivando il maltempo. Quando fa così sta arrivando il maltempo. Claudio, hai capito? Tu a Balai lontano. Io ho capito, sì, che a Balai lontano. La vedo io la Ginara da qua, purtroppo non vedo Sassari, ma la Ginara la vedo perché sono fronte mare, però al lato destro, capito? Poi c'è una collinetta che mi copre Sassari, però la vedo la Ginara, sì. Quella verso Punta Scorno è, sì, è Cara d'Oliva e si vede anche da qua, come ti ha detto Eugenio. Da Porto Torrese sta arrivando il brutto tempo, perché noi Porto Torrese, proprio per sapere quando arrivava il brutto tempo, bastava che si vedesse bene chiara da Balai la Ginara, e infatti domani ha dato pioggia, anche domenica, quindi sta arrivando il tempo brutto. Va bene, a te ancora Mario K. Arriva, ci arriva. E come gli arriva? Fidati. Ma stava già tornando l'altra sera qua nella mia zona, arriva, tempo brutto. Ma c'era anche Giulio, perché è oggi. Sì, c'era anche Giulio, si è dovuto allontanare 10 minuti. Però lui non riusciva a tirarlo fuori, non riusciva proprio a tirarlo fuori a Mario. È strano, da volare lontano i punti è favoloso, brutto, strano. C'è qualcosa in antenna allora. Riprendi Mario che mi squilla il telefono. Sono da Bologna, lo usavate il CB parecchio, no? Non si usava parecchio il CB. Io faccio un tipo di lavoro che sono molto a contatto con i camionisti, quindi me lo dicono. Qua in Sardegna poco, però su, dice, su lo usano tantissimo, è vero? Ho capito. Poi vabbè, io ho parlato per quanto riguarda l'ambito dei trasporti, vai. Andava bene. Claudio, stazione Chihuahua, ci sei? Ehi, io sono qua. Subito la rottura di balle di questi call center. Qualche giorno li mando a fare in culo, veramente. Per carità, tutte le ore chiamano. Ho capito, già voglio. Vabbè. Perché che antenna c'hai, Mario, nella macchina? Un'antenna piccola, che taglia è? Ma io penso di sì, per avere un piano di massa la lasci sulla base magnetica, le fai un piano di massa 30x30, 30x20, capito? Poi le attacchi la calamita e sicuramente lavora molto molto meglio di attaccarla a un palo normale. Se la vuoi te la do io la lamiera, che è tagliata, è già bucata per infilarci l'antenna. L'avevo fatta per il camper, però non mi serve più per il camper. Se vuoi te la do io. non se ne parla quali soldi, trovo io intanto non la uso, l'avevo anche buccata al centro per metterci la Salmo 2001, non c'è problema, ci troviamo all'ancora, a lungomare, e te la porto anche domani mattina, dove non c'è il sole. L'ancora su a lungomare, di fronte al Tropical Bar. No, è proprio Malai, ce l'ho presente, Malai la spiaggia. C'è l'ancora lì, quella piazzola grande, sembra i parcheggi, dove c'è l'ancora, con il monumento dei decaduti. Esattamente, esattamente. Un po' prima c'è quella piazzola, quei parcheggi. Lì c'è l'ancora, ti fai trovare lì proprio nell'ancora, che la vedi perché è grande, è grandissima l'ancora. Vengo te la do. Ma non farti venire a casa, non farti entrare nella strada bianca, capito? Tutto un fatto di una macchina devo scendere per porta a bordo Torres. No, no, non ce l'ho in macchina. Io comunque ho una BMW grigia, nuova, e l'ho ritirata l'altro giorno praticamente, già la vedi, è nuova. Tu mi hai detto che hai una Ford, no, una Opel, hai 10 e mezzo, c'ho 10 e mezzo, io sono lì, dai, all'ancora. Sì, stazione Chihuahua, la massa delle varie, ha già versato lei la Mini? No, c'ho già anche la Mini, anche la Mini, ce l'ho, no, la Mini la verso tra un anno e mezzo, due. E la Mini, e cos'è il pregio del BMW? X2 nuova, del tipo nuovo. Bellissima, molto bella. Sì, no, mio giro c'è al 330, molto bella. No, io sono fermo con le macchine, perché in questo momento no, ho avuto altre cose molto più importanti. Io te l'ho spiegato, mica tra troppo è finire qua un patrimonio, altro che macchine. Vediamo il prossimo anno se ce la faccio, la cambio. Probabilmente ce la cambia mia figlia quest'anno, ce vediamo, ma io non ce la faccio. Mi stavi facendo preoccupare, Mario, l'ancora è mitica quella, ero ragazzino io quando hanno messo quel monumento a Caruzzi lì. Solo che Eugenio ti doveva dire, ma noi facevamo l'identificazione con Balai vicino e Balai lontano, quello è Balai vicino, Balai lontano è dove eri prima. Stanno parlando. Ciao Cla. Ciao Lu, aspetta una parola. Non ti capisco. È normale. Bene ragazzi, ci sentiamo tra un po', che mi devo allontanare, che hanno suonato un attimo, e prendi Chihuahuino. No, c'era Luca che forse non sentiva Mario e stava fischiando. Ciao Lugarie, lo senti a Mario da Polotorce? Luca. Sì, Acla, che ero in camera, che tra un po', ma si libera Mario, mentre a farmi la luce, che vabbè, verso le 7:30 usciamo. No, non lo sento a Claudio io, Ma Mario, la Polotorce non lo senti? No, non arriva qua, non so se mi ascolta lui, ma non arriva. Arrivi. Ah, mi sente, qua comunque lo saluto a Mario, ma non arriva per niente qua. Ciao Mario, se senti a Luca, quindi già va bene, però lui non ti sente, non arrivi. Ok, ti saluto, buona serata, buon tutto, buon proseguo, eccetera, eccetera. Eugenio si è allontanato un attimo, che hanno suonato il campanello. Ciao, a presto Mario, vai Lugarie. Sì, ma non mi sente o che io non lo sento, non ho capito. Ok, ciao Mario, le croce, ti sente? C'è tu che non senti a lui, quindi lo potete salutare, che sta chiudendo. Io c'ho un'antenna di plastica. Vabbè, ma se lui ti sente, lui che è in macchina, quindi è un po' difficoltoso, arriva a 5 qua, nella mia zona, perciò non è un problema tuo, è un problema suo, perché tu arrivi. Ciao di nuovo Mario, alle prossime. Ok, ho già preparato tutto, Lugarie, domani mattina passo. faccio prendere Roberto, faccio le 9:30 e vengo a dopo. E ascolta Cla, ce l'hai lì a casa tua? Via, è qua. Pensavo che era rimasta carbonata in mansarda, invece ce l'ho andata a vedere, boh, e non vera. Infatti Roberto sicuramente, boh, non lo so, ce l'ho buttato, no? Però ci sia nel magazzino dell'altra casa, nella stanza del Cavedo, c'è un magazzino lì, una stanza che non è finita, diciamo, beh, finita ma non è intonacata. Ho guardato ed era coperto con un lenzuolo, l'ho tutto pulito perché era tutto pieno di polvere, l'ho pulito e c'è qua in stanza, domani mattina lo carico in macchina e glielo porto. Ascolta una cosa Cla, guarda, mi devi portare solo il case e basta. Sì, no, non c'è problema, lui le sto portando la tastiera, il tavolo del computer, poi c'è una telecamera da attaccare sopra il monitor li avevo già fatto, le serviva. No, te ti portiamo solo il case. Sì, ascolta, ma se non erro quello c'era anche la wifi. Lui se non lo sei indotto l'hai assemblata, mi diceva. Il suo computer, io non l'ho mai aperto, sinceramente non so manco come è fatto dentro, quindi non ti spaventare se è pieno di polvere, sporco, perché io non l'ho mai toccato. No, per quello, e purtroppo anche quelli lì, anzi quelli si sporcano di più dei portatili, meno male i portatili, insomma, riescono, ti faccio un esempio, se tu stai 2-3 mesi senza pulire un fisso, 2-3 mesi senza pulire un portatile, fisso sicuro che si sporca di più. No, allora, che mi ricordi io, mi sa che c'era la wifi attaccata dietro, un'antennina, una pennina, Sì, che ce l'ha, l'ho tolta io, se vuoi te l'attacco, ti serve quella lì? A Roberto serve, non a me. A Roberto le serve anche la pennina, se non ero lì, io non mi giardino. Ce l'ho, adesso trovo la cazzo. Beh, ce l'ho comunque, deve essere qua nel cassetto da qualche parte. Wifi, sì, quello lì, sì. Questo è completo, già lo sai, c'è anche la scheda audio, c'è tutto. Tra di noi sono quello un signor PC, e vabbè, adesso magari un po' di meno, perché purtroppo stanno uscendo i nuovi. Infatti io, ora come ora no, però più avanti mi prenderò un notebook, un i7 di processore, con l'SSD ovviamente, almeno 16 giga di RAM, mi serve un PC potente, però più in là, stavo dando un'occhiata su eBay, ci sono usati, però costicchiano, nuovo costa anche 1000-1200. Costano, questo l'ho visto, costano un bacca di soldi, della Lenovo come marca, poi cosa c'è dentro non lo so. Sono qua, sono entrato. Buonasera, Lucchito. Sì, chi è Cla? Chi è, vuole entrare avanti? È Eugenio, non lo senti? No, vabbè, un altro, si è sentito un sotto di te. Chi è che vuole entrare avanti? Ciao Eugenio, mi ascolti? Ehi Alu, ciao, buonasera. Ti ascolto piccolo, ma ti ascolto. Non ho approfittato Mario, ti ho già messo a parte la lamiera, se ci sia ancora. Idem per me, dai, ti ascolto basso, segnale 1, radio 1. Però riesco a tirarti fuori, dai, non c'è problema, va bene, dai. Cla, questo passaggio non mi assento, vado a farmi... Ahia, ma musica di idea. Una doccia, dai, ci sentiamo dopo, Mario, per i saluti. Poi domani, Cla, ascolta una cosa, io devo andare a aiutare mio fratello verso le 8:30, 9, ma non un quarto, 9, ma tanto sono vicino, Tu per quello chiamami, anche se arrivi alle 10 mi va anche bene. Sì, vabbè, non c'è problema. Perché Roberto non so dove deve andare, la pennina l'ho trovata nuova, è della... non so, comunque di marca, perché l'ho comprata da MediaWorld, con l'antennino. Ok, ho trovato tutto. Va bene, ti chiamiamo domani, ti chiamo io domani mattina. Eia, perché devo dare una mano a mio fratello che secondo te ha pulito una stufa a pellet, solo che ci sono le guarnizioni da cambiare, la dobbiamo rismontare, se la deve rismontare io devo tenere solo i tubi e basta, perché mia se la picca a dietro, mica me la picca a Dio, ma giusto voglio già dargli una mano perché la padrona di casa mi pare un po' che tu sia un po' gudonza, penso di liberarmi verso le 10, ma comunque sia tu chiamami, nel caso che non abbiamo finito io vengo, recupero il computer, me lo metto nello sgabuzzino e poi lunedì con calma glielo faccio. via, non c'è problema, va bene, io te l'avrei portato anche oggi, capito? Anche stamattina, però non ho avuto tempo perché non c'avevo macchina. Va bene, Lucaria, dai, buona serata, buon tutto alle prossime, allora. Ci aggiorniamo domani mattina. Avanti, Eugenio. Okay, ciao, Lu, ci sentiamo. Ciao, alle prossime. Stavo dicendo, Mario, ci ho messo da parte già la lamiera. Sì, claro, adesso sono una famiglia, non lascia qua, adesso sono ancora qua, perché devo cenare ancora, è presto, va. Cenerò dopo, ovviamente, portiamolo un quarto, otto, così. Ci sentiamo fra un po', dai. Sì, domani mattina 10:30 all'ancora, vai. Andate, poi ti do la lamiera e fumo due a casa. Chihuahua, avanti. Sì, va bene, dai, saluta Luca di nuovo. Già siamo qua, Luca, se poi vuoi entrare a salutare. Ci aspetto sempre a Roberto e poi spengo tutto, vado a vedermi la TV. E allora oggi, quindi sei malattia? Sono malattia, sono malattia perché così a lavorare non posso andare, è un problema. Non ti vai a andare a trovare in quelle condizioni, a prendere una blocco polmonite, sali scendi lì dal metro, col freddo che sta facendo lì, che ha fatto l'ottore, c'è una bufandici, lascia verde. E a Mauro Gianni, più vito l'hai, sì. Sì, siamo tutti giorni assieme, e Mauro ha quasi finito, Mauro fra un po' ci lascia e si vuole la pensione. Beh, ci abbiamo la stessa età, amico Mauro, cosa pensi che è il ragazzino Mauro che sta lavorando, come me. Adesso ci hanno dato la bella notizia, ci hanno dato 6 anni di circolo, 6 anni di circolo alle portuali, è una buona notizia. Quindi ci hanno ok, se ne va un po' di gente da noi. Ci conferma, è una bella notizia, sì, quella. Almeno entra gente nuova, gente giovane e via. Perché già a quell'età lì, come c'è Mauro, come me, con quel lavoro ti sfianca, ti distrugge, io gioco a pezzi, io mi alzo la mattina tutto piegato in due, ci vuole almeno un'ora prima di riprendermi. Proprio la schiena, sotto, la lombalgia, tutte le costole, le mie parti di mare, tutto a pezzi, quella è l'umidità, il freddo che ho preso, capito? Allora, cioè l'altra sera c'era una levantata, ma eravamo tutti bagnati, perché sbatteva sulla banchina l'acqua e poi saliva su, allucinante, un casino. E io non lo a me, da un gioco, mi hanno giubilato i battinati d'erba quando ero al Colino, cioè, lascia perdere, entrare in galleria al Colina, c'è 10 metri sottoterra, leva di curava un altro gabu, perché chiaramente l'umidità lì fa imbuto, capito? Devi camminare dentro i tubi di cemento, non te ne dico, quindi anch'io non è che sono messo bene, però io non me la fottia nulla, ho detto basta, boh, e a giovenito, mi sono andato prima, si abbigliano i culti, anzi. Cosa devi stare lì a morire per loro, qualche cosa, battendo di più, ma in picchi di me. Ma figurati, sono dimenticato in salute. E così io non ho più 31 anni, ma ne ho 37 anni, contributi adesso. Di lusso. 37 anni, ma non c'hai l'età, se no potresti andare fra 2 anni con la pressione social. Sì, vabbè, ma una volta io raggiungo 41 anni contributi, 41 anni contributi, io lavoro, ci sento più male anche se mi pagano. Non... E io ho capito, ma se avessi già avuto 63 anni, se avessi potuto andare, perché per la pressione social sono 32 anni di contributi, 63 di età, quindi potevi andare. Invece non hai l'età, capito? Un paio di miei colleghi vanno con la pressione, vanno con la pressione anche perché è stata prorogata per altri 2 anni, quindi vanno, perché uno fa 63 anni il prossimo mese e ha 37 anni di contributi, ma tu mi dici tutto andendo, no, trattenendi. Sì, ma uno quando raggiunge 40 anni di contributi, devi aspettare per forza l'età, non ho capito. Io con cosa sono andato? Io sono andato con quota 41. Io ho fatto quota, anzi, veramente ne avevo 46 mesi. E 6 mesi me li ha dati l'azienda, capito? E quindi ho fatto quota 41. Cosa invece di oggi? Io ho 61 anni oggi, sono già dal 2019 io a casa, quindi fate un conto. Ma se ti fai i conti, allora, che tasse ti hai? Ok. Uno fra 3 anni o 50 anni, uno a 55 anni dovrei andare in pensione, cioè dovrei andare in pensione, dovrei avere raggiunto 4 anni contributi, e poi tanto di più te ne vanno, un giorno a lavoro e 6 mesi malattia, un giorno a lavoro e 6 mesi malattia. Sì, ma quota 41 è una formula, non è che vai... che ti va in debito di liscio che va a 38 anni in contributi, sempre liscia a me la manovra, non è che io sono andato col massimo lo stesso, però percepisco sempre la stessa cifra, non è che te ne vanno di più, no. Però anche io non avevo l'età ma avevo i contributi, come vuoi fare tu? Tu adesso stai raggiungendo il massimo però non hai l'età. Io sono andato a 58 anni oggi, tu andi a 55, io sono andato a 58. Quindi non è che cambia molto, però sempre con quella formula lì. Mentre invece se non raggiungi quota 41 e hai 63 anni di età e hai 32 anni di contributi, 32 anni di contributi puoi andare con la formula della pressione, ho capito? Ci fai lo stesso. Vabbè, non sto pensando a quello, però... quando ci arriverò sono 40 anni contributi, te ne dico io, età o non età, io mi gioco a denti, raggiungerò sicuramente un accordo con la mia società e me ne vado. Esatto, perché mica me ne gioco a uscire, ho detto buon invece, buon viaggio, no, ci vuole un accordo sia aziendale che sindacale, noi abbiamo fatto un accordo, è venuto da Cagliari il mio direttore di distretto assieme a due sindacalisti della società, abbiamo fatto un accordo scritto, perché così io non posso più incriminare niente, capito? Quindi l'accordo, allora, lei vuole andare in pensione, perfetto, noi per andare in pensione le diamo questo, allora a te non può più rientrare, non può chiedere questo, non può chiedere quello, non può denunciare, non può fare, scriva, sì, ok, firmi, tutto a posto, l'accordo devi fare, se no te ne vuoi andare a cuscino, devi fare la domanda all'Inps, aspettare, io sono andato via senza fare domanda da nessuna parte, sono andato via con un accordo aziendale, capito? Poi, dopo che sono andato via, sono andato al mio sindacato, al CAF, mi hanno presentato tutta la documentazione, ho aspettato per fare due mesi e qualcosa, e poi mi è arrivata la pensione. Perché tu sei cuocuomane? Ciao Natalì, cuocuomane sarai tu, capito? È bello bene. Non senti a Natalino oggi? Basso. Basso, faccio fatica a capirlo. Perché sempre con un vatti, lui c'è sempre con un vatti, capito? Quindi oggi già ce la fai, dai. Io mi ero già accordato, l'azienda mi ha aiutato tantissimo, addirittura mi ha dato anche dei quattrini in più, insomma, abbiamo fatto un accordo, dai. E mi è andato tutto bene, perciò. E Mauro, sì, Mauro cioè del 60 come me. Sì, ma io come raggiungo 40 anni, me ne sto andando subito, mi vengo le porte, mi lascio la compagnia portuale, la mia corsa la lascio la compagnia portuale, una volta bagà, e chi si è visto. Natalino, uomane! E via, mi allucca di nuovo. E così devi fare, allora, io montaggio vatti, io guardo un avio, però... non è che se volevo io potevo rimanere per altri 5 anni con contratto a chiamata, ma avevano proposto, ti immagini, io quando sono andato via, a novembre, ad aprile dell'anno successivo mi hanno telefonato se volevo rientrare urgentemente perché c'era un casino che non veniva bene a dirlo nella zona dove ero io, capito? Io nella zona di mare, lì mi sono fatto un'esperienza allucinante perché lì se sbagli paghi, avevano mandato due da Cagliari, non assunto, avevano spostato due da Cagliari praticamente non li comprendevano accidenti e quindi si stava incasinando tutto l'indotto. Io gli ho detto assolutamente no, guardi che le diamo soldi, non voglio niente, io me ne sono andato per stare a casa, quindi non mi promettete niente, no, anzi faccia una cosa, non si offenda, ma non mi chiami più, e infatti non mani più peccato. Se ti arriverai a vita, tu non mi sembra avere ammesso, mi dicono, vai dimmi, oi oi oi. Ma un'offerta allucinante, oggi il doppio di quello che prendevo, mi volevano dare da aprile a settembre, un contratto a chiamata, da aprile a settembre il doppio di quello che prendevo di stipendio, il doppio proprio, il doppio. Gli ho detto di no, non me ne fregavo assolutamente niente, mi sono andato per stare bene, per riposarmi, c'avevo la testa che mi stava scoppiando, il fisico che stava iniziando a cedere, ha detto devo continuare, per altri 6 mesi, la cosa maritina, ma non mi ne ha fatti manco ballanti in camera, capito? Non ci sono andato, tutto qua. Avanti Lucaria, vuoi rientrare? No, ha detto Cocuomane è natalino, ma quello lo sappiamo che è natalino è Cocuomane. E vabbè, quindi domani, no, io questo Mario non lo conosco, non l'ho mai sentito neanche modulare da Porto Torres, è un paio di volte che lo sento, non ho più sentito Antonello, non ho più sentito a Claudietto, non ho più sentito a chi è Manuel, mi sembra, insomma tutta la banda del Gobbo, non ho più sentito a nessuno, ma sul canale 12 non state più parlando. Sì, un tanto, ma Antonello si è preso adesso l'applicazione, quella Midland, è sempre su 12, sull'applicazione, che a me non piace, me l'ho anche cacciato al telefono. Io non l'ho più sentito nemmeno io, perché ogni tanto faccio chiamata su 12 quando c'è nessuno. Mario l'ho sentito adesso per la prima volta. Poi ho fatto questa cosa qua, così riusciamo a andare a casa e niente. Gappa gappa. No, infatti Antonello niente, non l'ho più sentito. Prima la sera entravano sul canale 12, ci facevano una chiacchierata, a volte entravo anche a salutarlo, però non l'ho più sentito. Ma se proviamo lo baracchino, chi ha aiutato il telefono, oggi compreso? Questa applicazione veramente sta allontanando un bel di gente dalla radio, a me non piace, è una cosa che non... Già io il telefono lo odio, guarda, assolutamente, è una cosa che non mi ne ha fatti nulla. Io immaginate che accendevo il telefono alle 5 del mattino, lo spegnevo alle 6, alle 7 di sera, quando non ero reperibile, se no rimaneva 24 ore acceso. Ma no, tardi, manco io mi pare che non mi chiama più nessuno, ma per carità di Dio è cosa assurda. Aspetta Claudio, mi stanno chiamando, qua asciugare, aspetta. Vai tranquillo, io sono qua, Gio, non ti preoccupare. Claudio. Ehi, io sono quelli. Natalino Perivella. Adesso devo andare a fare una strage di seppie. A seppie se andiamo, che ne avrete tappa di vermi? No, ma non guardano. Sto preparando la cena, figurati. Attivamente che andrò a giocare qui da strage. Asciuga, mamma mia come sto. Sicuramente stanno andando Gianni a pescare, perché non ho più sentito il radio. Può darsi, non lo so. Mi sono comprato la canna stamattina per andare a calamari e seppie, proprio adatta allo scopo, perché sforzo non ne posso fare, deve avere una canna leggera, per quello lì. E allora, quando mi decido vado, me l'ho già piazzata, mulinello e tutto, e così armanco. Quindi ma vedi se riesci a fare che cosa? Io volevo armarmela, c'ho una cannetta, è quella piccolina, ma problemi di cane non ne ho perché vado con Franco e ho voglia di anni. Solo non ne ho voglia, Natale, prendo troppo freddo, poi mi fa male troppo la schiena. Non sto combinando un accidente a casa, niente. faccio la fine di un sacco di lavoretti e li ho bloccati perché non ce la faccio con la schiena. Sto un bel male questo periodo. Forse ho forzato troppo l'estate e mi è tornato di nuovo l'infiammazione all'ernia del disco e quindi è un casino. Il gioco bloccato. Mamma mia, come sto? Io lo stesso era mal di schiena e mi avevo comprato questa fascia, no? Però me la teneva, dietro è rigida, però è... cazzo, chissà mi la bongo andando a piccarmi. E io la fascia la metto quando taglio l'erba, quando faccio proprio in piedi, ma quei lavori che stavo facendo erano tutti inchinato, capito? Stavo pavimentando dietro, facendo i lavori dietro il Carverio, iniziando, facendo e quindi passando tubi, eccetera, e perciò mi ha crepato. Poi c'è, sicuramente ho preso freddo, corrente, capito? Mi è tornato adesso. Devo rimanere almeno 3-4 giorni senza far niente e prendendo l'antinfiammatorio. Appena mi passa, torna l'arrembaggio e mi butto sopra. Però per il momento non posso fare niente perché mi fa troppo male. E ha crepato lo spavaldo e clà. Devi convincerti che sei vecchietto come me. Ma non mi convinco mai, no, Natali. Di 60 ci sono, hai ragione. Ma è una cosa, Lucia, mi invece lo manzano molto nel garraggio, tutto piegato. Devo sedermi un attimino, prendermi caffè, rilasciarmi, alla guida un'oretta come a muovermi, se no li vorrei due a pigiammini. Io non credo, già ti credo, già. A chi da giovane avevo fatto troppo lo spavaldo, va via, mi rubizio di andare a travagliare, compreso dai. Noi eravamo i mandoni e quindi giustamente a età avanzata ti vengono tutti i mali. Ci avevamo pigliato poco il freddo, il motto, mi scende dalle 5 di mezzanotte, sullo stress. Quelli sono purtroppo, se lavoravamo in ufficio, al caldo, come ha detto Giulio, con l'aria condizionata di scia, con il riscaldamento di ferro, a vedere che ci sono le amicizie tranquilli e sereni. La messa di Bedarzilli, no, aveva paura di urori, catta. Io guarda, sono vivo per miracolo, perché quest'anno, guarda, ho avuto 3 ricoveri e 2 interventi, infatti Rugonto, cosa busso, mi sto riprendendo adesso peso già 60 kg, prima a 52 kg era rimito, infatti Rugonto, come ti ero ridotto. Bella, 60 kg va bene, Natali, dai. Puoi anche aumentare ancora di più, un pochino più cicciottello, ma prima non ti ho visto ieri, troppo magro, troppo. No, ma poi ho avuto molto infortunio al lavoro, capito? Si era staccata una passerella e te l'ho caggiuto dentro un vascone. Fortunatamente era pieno d'acqua, c'era più di un muscio. Nel cadere, come mi sono agganciato alla ringhiera, mi si era attaccata la spalla e mi fa un bel male quando cambia il tempo, che c'è molto, poi qua la temperatura è molto più bassa rispetto a Sassari perché sono molto più alto, sono proprio di fronte a Ugilo, quindi c'è molto freddo sia la mattina che la sera, se tu esci fuori, capito? Magari esci col cane, esco fuori a fumare una sigaretta e qui e là e quindi mi fa male anche la spalla, capito? Oltre la spalla mi fate male tutto il buccaggio. E allora ho detto, adesso ci fermiamo un attimino, quando ci riprendiamo, allora riprendiamo i lavori, che no, non ce n'è, però lo sto sempre facendo perché le cose sono da fare, insomma devo ultimare delle cosettine, capito? Ripetitore attivo per Monterraggio. Sì, lo sento anch'io. Se vedo un viaggio voi sull'antenna e ricevo un accesso di buona ridicola. Io ho un X50 sotto la mantova, fate il conto. Sotto la mantova è un pochino più alta e poi a fianco c'ho l'altra cosa, come si chiama? La J-Pod. Me l'ho messa lì con la staffa palo proprio per ricevere, per farmi due chiacchiere di VHF, non HF, ma a livello locale, però intanto ci sono i punti, quindi non c'è problema, ricevo tutti. Va bene. E c'era un periodo che non era attivo. Sono partite le cavità, forse Fabrizio le ha messe a posto, non so, non le ho chiesto niente, perché arriva Benino adesso. Prima arrivava un po' a culo di scimmia, adesso arriva Benino. Sono rientrato ragazzi. Mi devo spostare un attimo in cucina. Già riprendo fra. Ehi Anatari, vai tranquillo, già siamo qua, dai. Già sono qua, avanti, vieni. Adesso è entrato qualcuno? No. Sono entrato io, il più forte di Sassari. Ehi, c'è stato Roberto, buonasera. Ehi, il più forte era Claudio, adesso sto cercando io di mettere qualcosa per scavalcarlo, ma è difficile. Ciao Claudio e ciao Eugenio, c'è qualcuno altro? Ciao Robby. Io te l'ho lasciato lo scettro e quindi vedi tu cosa vuoi fare. Adesso la torre di controllo c'è in due, io mi sono ritirato, sono caduto nel vascone della torre. Che vascone ci sei caduto tu? Il vascone di un sedimentatore a Nulvi, a Mazza, nell'Ivaria. Ma la cosa bella che anche appunto con i miei dirigenti ne parlavamo dopo, che il giorno prima io stesso l'ho fatta svuotare per pulirla, perché doveva venire l'autospurgo Leoni a darle una pulita con la pulivapora, aspirare tutti i fanghi morti, insomma un vascone di sedimentazione del depuratore, e l'ho fatta svuotare. Poi ho detto, ma dai, vabbè, se è pulita riempiamola. No, cara, riempiamo domani. No, riempiamola oggi che dobbiamo sedimentare, no, non possiamo stare col vascone così. E l'ho fatta riempire. L'indomani, che sono andato a vedere, si era riempita, insomma c'era tutto a posto, se il livello dell'acqua era regolare, se stava sedimentando bene, eccetera. Cazzo, si è spostata la passerella, e ci sono caduto dentro. E fortunatamente sono caduto nell'acqua, però girandomi per mantenermi alla ringhiera mi si era attaccata la spalla. Se era vuota, se davo retta al mio collega ero muscio. Sono 6 metri d'altezza e sotto ci sono le frange con i tubi. Dimmi una cosa, chi ti ha recuperato? Il mio collega stesso. No, chiamato anche l'ambulanza è venuta, il mio dirigente stesso, e siamo andati al pronto soccorso. Sono rimasto lì tutta la mattina con questa spalla attaccata, mi hanno messo il tumore per mantenerla, poi mi hanno portato in ortopedia, cazzoni a dolore, Roberto mio, cazzoni di dolore per metterla dentro, mamma mia come sto. Io già lo so, ho visto gente, uno della squadra, un paio di ragazzi della squadra che ne usciva, ma rodurori, quando qualcuno riusciva a mettersela a posto da solo, ma altri portavano a pronto soccorso, ma se non esiste l'anestesia poi te la mettono. Nulla, niente, dice ti affermo, mamma mia, ma come ti hanno recuperato, scusa oggi, come ti hanno recuperato, a mano o cosa, la libera con la corda, come hanno fatto? No, il vascone è basso, cioè la passerella sarà a un metro e poi c'è c'è quelle passerelle dove si cammina e sotto c'è il vascone dell'acqua, no? Niente, mi sono aggrappato io alla ringhiera, però chiaramente ho chiamato un collega e ho detto via, levo la mano, perché cazzo, mi avevo messo 2 o 3 punti nella mano, perché c'era la lamiera che mi aveva tagliato appena la mano, e basta, non c'ero niente, ero tranquillissimo, ero tutto in fugio. Quindi addirittura prima di andare al pronto soccorso mi hanno portato la roba pulita dall'ufficio, io c'avevo sempre un cambio lì, mi hanno dato una mano a cambiarmi e poi siamo andati per rimettere a posto la spalla, ma niente di che, non sono salito da solo, non potevo salire io da solo, mi ha dato con la mano lui, perché c'è poi la pedana sotto, no? La passerella inferiore praticamente, quella superiore, e per i controlli quella dove camminano per fare le pulizie. Quindi si è messo lì, mi ha dato la mano e sono salito. Ma di inverno che fate succedendo? L'inverno purtroppo. Certo, quando tu esco bene forte, mamma mia, ogni tanto mi meraviglio di me stesso. Stai scendendo bene oggi? Io sto usando il gemello tuo. Sì. Eia, vanno bene con le radio. Vanno molto, molto bene. E invece Ruggero, sai dove ci sono caduto io? Nell'acqua del posto. Sai che te l'avevo raccontato, non è il porto, da Pontile dove c'erano voli, ti ricordi dall'altra parte, Pontile qui l'ex comunale. Saltando per non fare la mandronia di non mettere la passerella, vado a saltare, mi si aggancia la scarpa al rubinetto della colonnina, a giù meno mi ammazzo. Ho messo la mano per salvarmi la faccia e mi ho fatto tutto il peso nel corpo sopra un dito, infatti mi è cresciuto storto, cioè mi è cresciuto, mi è rimasto storto pollice, indice, il medio e tutto va ridotto. Ho fatto tutto il carico di chi, ma ho fatto un volo, ho vento un macco, sono caduto, tu come sali a peso morto, mi si è agganciato, mi ha bloccato la scarpa, boom, e mi stavo sbattendo la faccia al motore. Per salvarmi ho dato tipo una sculacciata, ho dato un colpo di coso e ho messo la mano, però ho fatto tutto il carico sul dito, mamma mia quanto mi si è fatto. Come sono entrato sono uscito all'acqua, un secondo, era un video dei ovuli, mi ha detto non ci sarei caduto in acqua. È arrivato così, non avevo vestiti, non avevo niente, alla fine mi ho messo in macchina, nella barca c'aveva uno slip di mia moglie, dell'ex moglie, un costume da bagno, mi ho messo il suo slip nudo, me ne sono andato e mi ho messo una cerata sopra. Se ne aveva la polizia mi bigliava pedofilo. Lo sai, io mi sono dovuto tuffare il 1 gennaio 1991. Con il slip in acqua del porto, l'acqua dove c'è la capitaneria, quindi avevo dato l'esame, diciamo, stavo facendo il concorso per entrare dove lavoro adesso, ci siamo dovuti gettare lì, abbiamo dovuto fare le prove di nuoto, poi salire nella scialuppa, a remare, e poi abbiamo dovuto fare sempre a petto nudo e i pantaloncini di slip, l'uomo a mare, con la ciambella, devi gettare la ciambella per il salvataggio, sempre nudo, 1 gennaio 1991, non me lo dimenticherò mai. Cacchio, d'inverno, addirittura li fanno fare d'inverno questi. Vabbè, dimmi classico. A te, a quanto mi ha detto Luca, ti serve anche il pennino wifi. Non lo so se è predisposto quello lì, perché c'è quel pennino. Sì, infatti ti do anche il pennino wifi che è nuovo, che è predisposto, sì. Si attacca dietro la porta USB che funzionava alla grande. Allora veramente è tutto nel libro delle annotazioni, nel libro nero, segni a tutto e fermo un conto tutto una volta. Sì, guarda, non ho dubbi. Ti sto dando la tastiera che è sua, della Lenovo, il case di nuovo, il coso del pennino wifi, il cavo che è suo originale di quel computer lì, e poi ho trovato anche la telecamera da mettere nel monitor, hai visto? Si aggancia al monitor del computer, una nuova, peccato, tanto io già ne voto. Buone, buone, tutto in mezzo, grazie comunque. Cacchio, cioè, non sapevo che ti facessero fare la prova, tipo quelli super speciali, che ti circondano a luglio anche d'inverno. Water Voga si chiamava, no, oggi? Sì, Water Voga è uomo a mare. Ma adesso non più, l'hanno levato, perché io quando sono entrato nella marina mercantile, quindi sono entrato tramite concorso, poi l'hanno levato. Niente, sì, ma nessuno ha un'antenna di quelle con la carica, con la molla, diciamo, là nello stino, la gancio a farfalla. No, io no, ce ne avevo una lavorata più vicino al moro, non so se ne ha Roberto. Io non è la molla, è di quelle normali, ma l'avevo dato a Salvatore Maestrale, con il, insomma, che sia magnete, però me l'ho messa, se no te l'avrei data, che non ne ho problemi, però già chiedo, me l'ho messa in camera da letto, sopra una mensolina, quando la notte voglio ascoltare, me l'attacco, c'è un piccolo ricevitore, me l'attacco, però chiedo se la busco, io c'è per la 27 naturalmente. Sì, per la 27, hai capito quale? Quello con la carica che ha la molla nello stino, quella che è sotto alla gancio a farfalla, diciamo, là, si abitava la farfalla. Il camper mi serve, perché quella che ho della casa è brutta, non mi piace, è nera, è piccola, è nera, non mi piace. Ma tu vuoi solo l'antenna senza la base? Sì, l'antenna sono senza base, intanto la base ce l'ho. Se non ti raggio una lampada, perché io nel camper ne avevo una di queste antenne, quando me l'ha dato c'era l'antenna, se non ce l'ho buttata devo cercarla, non è sicuro però che ce l'abbia, se no già chiedo a qualche amico, già la buscamo, non ti preoccupare. Allora provo a fare la giornata a salvare la gente e l'uomo a mare per la patente nautica, ma non è mai